Preparate la colazione e mangiate tanto! Perché stasera ceneremo nell'Ade! 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale. Dante Alighieri al Senato, sono lieto di essere in questo luogo, tra l'altro l'anniversario cade proprio preciso, se cadeva fra 2 anni il Senato veniva abolito, quindi siamo stati fortunati. Dante era un politico impegnato, si è fatto tutti i nemici, era un caratteraccio, sappiamo che era fiorentino, i politici fiorentini hanno un caratteraccio, lo sappiamo, bisogna avere pazienza. Prima guelfo, poi guelfo bianco, poi ghibellino, poi voleva, non gli piacevano i guelfi né i ghibellini, voleva fare parte per se stesso, l'ha detto lui, un partito proprio personale suo, proprio il partito di Dante, un PD dell'epoca praticamente. Il Benigni che potremmo utilizzare per sostituire quello che è stato superato dal contatore che si è fermato, l'Italicum che c'è, Habemus Italicum. Ci sentiamo un po' solenni, E tra l'altro io anch'io ogni tanto quando vengo qui a Radio 24 alle 5:20 quando sono in macchina o ascolto Tutti i pazzi per RDS perché sono amici, sono bravi, un grande abbraccio a Max Pagani, a Rossella Brescia, oppure un po' di musica classica, no? Perché così ti risveglia un po' i sensi a quell'ora, no? No, Peter, ho detto no? Encefalogramma piatto. Vabbè, d'altronde c'è subbuglio. Lorenzo Nespoli, 2 minuti prima di entrare in diretta, ha detto: mi è morto il mouse. Sono cose che a 2 minuti da una diretta non devono e non dovrebbero mai succedere, neanche nelle buone famiglie, nelle buone redazioni. Che palle. Porta il tiro, porta la rete. Volata, Juventus in vantaggio. E andiamo avanti così con rigori, peraltro molto generosi. Ma nessuno l'ha detto che Tevez si è letteralmente gettato a terra su un intervento di un difensore che non l'ha neanche sfiorato di un millimetro. Nessuno l'ha detto. Nessuno l'ha detto che col Monaco c'era un rigore fuori area. Va bene tutto così? Andiamo avanti. E poi mi scrivono: rigore per il Milan. Mi scrivono questi simpaticoni su Twitter. Stanno andando avanti a rigori inventati così per cercare di vincere la Champions League con rigori che solo col binocolo si possono vedere. Va bene, forza Juve, viva e viva. Allora, no, 2015, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola con Paola Saluzzi. La nostra Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega oggi, assolutamente nulla. Oggi è in movimento, ma cosa ci fai in movimento a quest'ora? Sei stata dall'amante e stai tornando in maniera trafelata a casa. Non lo so. Alino, ma come ti permetti di dire queste cose? Sto andando ad affrontare un viaggio che neanche la Transiberiana, da Roma Sud al fondo di Via Cassia. Ah, cioè, e voi che siete di Roma, capite? Capite che vuol dire? Insomma, ecco, è una traversa. Ma guarda, ma che animo! Ma vabbè, sarà anche Milan che mi ha innervosito un po'. Parliamone. Allora, innanzitutto, buongiorno. Secondo, buongiorno. Spero bene che la voce si senta. Sì, sì, perché sì. Il mitico Lorenzo Nespoli mi ha detto: Paola, col polare, però mi raccomando, non si sente molto bene. No, si sente, si sente. Se non si sentirà bene, te lo diremo. Guarda, non abbiamo pietà noi. Allora, la nostra Paola Saluzzi. Lo vedo. Raccontaci poi ogni tanto quando vuoi la Roma alle 6:33 minuti. Perché, assolutamente. Ora posso dirvi, per esempio, che Via Veneto è meravigliosamente vuota come Ah. Potrebbe essere solo nella poesia di Federico Fellini. Appunto, e ciò davanti in camion, però, che trasporta lo della monnezza. Cosa. Ecco, praticamente hai rotto ogni momento di poesia. Il camion della monnezza. E vabbè, se c'è qualcosa, se devi strombazzare ogni tanto o dire a qualcuno: ah, brutto figlio, fai pure. fai pure. Noi siamo Radio Verità. Radio Verità. Molto bene. Allora, ottimo. Tanto abbiamo, quando abbiamo sempre Federico Novella che supera la barra della tangenziale, ci racconta sempre come va con la signorina, se scambia qualche parola il lunedì, no? In genere, quindi lui ci racconta il traffico in tangenziale. Radio Verità con Paola. Vai. Saluzzi. Abbiamo anche il nostro Luca Dini, direttore di Vanity Fair. No, non c'è. Ah, no, non prende il cellulare. Quanto sei grande Roma. Vabbè. Quando è il tramonto. Che meraviglia, ma siete pronto? È così. Ci vengono così. Luca Dini, dovete sapere che non risponde mai alla mail di convocazione del mercoledì. Ieri eccezionalmente ha risposto. Luca Dini non risponde mai alle mail, messaggi, perché ne riceve 5.000 al giorno e quindi è impossibile, è come avere udienza dal Papa. Ieri eccezionalmente ha detto: tranquillo, domani ci sono. E infatti non sta rispondendo. Adesso la notizia, lo vedi la notizia? Qual è? Che i cellulari talvolta non funzionano dove dovrebbero, invece funzionano all'aperto. Esatto, in macchina. Da oggi sai cosa farò ogni mercoledì? Sarò in macchina, va bene. Assolutamente, ogni mercoledì in macchina, anche se non devo andare da nessuna parte. Ma che bella questa cosa, per mezz'ora scendo e vi racconto la città. Va bene, scendi, vabbè, poi non ci puoi descrivere se sei in vestagliona, in vestaglia, in vestaglia di seta. Io voglio, vi appello ai nostri ascoltatori. Ogni tanto fuori che sono andato dall'amante in vestagliona. infatti in vestaglina, le ciabatte con l'animalone sopra. Non so, l'alce americano, che cosa? Rientro subito in me, in vestaglina di seta. Ma vogliamo parlare invece del cambio che hai fatto, sempre grazie al premio Oscar Benigni. Sì. Puoi essere così chic da essere passato da vogliamo elettori il bagno alla turca a partito di danza. E qua si è aperto un dramma, perché bisogna capire la sigla che era l'invito a fare la legge elettorale, adesso non c'è più, non c'è più anche la, ma come direbbe Maria Elena a noi, ciao Maria Elena. È stata, ma ti ha scritto Maria Elena l'altro giorno su Twitter. Ma ha scritto: questa è l'ultima settimana. Ciao Maria Elena. Ma ha scritto così: ciao Maria Elena. Va bene, dai, apriamo il Parlamento. Siamo allora, oggi possiamo proprio dirlo, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi. Quindi se mai ci vediamo. E Paola Saluzzi e Paola Saluzzi. Non lo so, secondo noi non si è svegliato, Luca Dini. Questa è probabile. Una versione. Qualcuno dice è all'estero e il cellulare fa uno squillo strano. E vabbè. Abbiamo un direttore giramondo. Ma a proposito della Juventus, ieri sera vogliamo parlarne? Parliamone, ne scegliamo soltanto pochi minuti, impieghiamo. Mi devi innervosire. Sei una di quelle che, siccome la Juve è italiana, viva la Juve? Sì. Ecco. Vabbè. No, non lo so. Io no, ma sono strano io, evidentemente. Così, ma per tenere lo spirito di squadra e per dire è un'italiana che vince. E invece i veri tifosi, dicono. Ma quando, ecco, questa è una strombazzata in diretta. Ma non ho parole. Ma con chi ce l'hai? Perché secondo me Paola Saluzzi è proprio così quando va in macchina. Puoi ristrombazzare così per noi, Solo per voi, ma c'ho davanti il camion, sempre quello. Ecco, questo è il. È andato avanti! Scusi, adesso tu mi fai litigare con un uomo cattivo. Vabbè, tu di che era tutto per Radio Verità, dovevamo fare una diretta per Radio Verità. Prima mi tira due pizze, poi. Per Radio poi Verità. Però Verità. Udite, attenzione, Paola Saluzzi, fermati, è un attimo clamoroso. Allora, Luca Dini, buongiorno, che è successo? Ma io ero qui, non so. Io ero qui e noi è 5 minuti che parliamo del fatto del giallo. Luca Dini sarà all'estero. No, ero qui che aspettavo. Aspettavi. Aspettavo vicino al telefono come le fidanzate. Vedi. Allora c'è una Paola Saluzzi in macchina, sta attraversando Buongiorno Roma. Ogni tanto ci racconterà, ha già anche strombazzato un paio di camion della Monnezza, per farci sapere come sta andando. Vabbè, dai, qui dobbiamo parlare. Voi avete capito perché protestano la scuola? Cioè, nel senso, avete capito, Paola, tu hai seguito, avete seguito ovviamente questa protesta. Ho seguito, ieri avevo degli ospiti molto interessanti. Come la trovi una protesta sindacalizzata? Cioè, come dice Renzi, non cederemo, basta questi sindacati, oppure una protesta legittima, hai capito? È una protesta asso in daffa, ovviamente i sindacati ci sono dentro, li abbiamo visti, è la protesta di chi chiede di essere, soprattutto mi ha colpito la protesta riguardante 5 per 1000, sì. Che è sembrato essere quello più uno tra gli argomenti che agitasse di più, in particolare coloro che non viaggerebbero tra i 5 per 1000 più ricchi, diciamo così. E poi è molto intrigante questa figura del preside che può decidere tutto, rivisitata comunque, insomma, che riceverà una limata come un'opera di Michelangelo, che possa decidere tutto, perché ieri avevo un ospite molto interessante che diceva: e se troviamo il preside che potendo decidere tutto diventa una specie di dittatore, piccolo dittatore della... Sì, questa è una delle accuse, come l'altra accusa è: sì, è vero, si assumono 100.000 precari, ma intanto è perché l'Europa ce lo chiede, intanto perché ci sono sentenze, quindi sono stabilizzazioni. Però si sa, Alessandro, attenzione, anche questo va detto, comunque si sa tutto questo, quello che prima non c'era, per fortuna adesso viene fatto. È chiaro che qualsiasi cambiamento, ribadiamo, siamo in democrazia, specie quando la democrazia porta la gente a condurre per strada una protesta civile, e quella è la vera democrazia, si incontreranno, insomma, sì, c'è ancora da limare, lavoro in corso. Lavoro in corso. C'è da dire che Renzi è sicuramente, racconta il giornale, arrabbiato per il fatto che la comunicazione, sapete che lui punta tutto sulla comunicazione, in questo caso la comunicazione del governo è un po' fallita rispetto invece alle immagini, no, di tutti i sindacati in piazza, tutti i professori arrabbiati. Anche Crozza ieri si è dedicato a questo, in parte. La riforma della scuola, stamattina hanno sfilato tutti i docenti d'Italia, a Milano c'erano 30.000 professori così incazzati che i black bloc si sono riparati nelle banche per la paura. Vabbè, succede anche questo. Luca di... avrebbero potuto interrogarli, sì. Esatto, e avrebbero fatto una pessima figura. Ignorante. Ricordiamo sempre quello che, ma insomma, se non bruci una banca, che a 21 anni sta rifacendo per la terza volta il quinto anno di liceo e ho detto tutto, il mitico Mattia. Caro Luca Dini, vedi. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do poco alla banca sono un coglione. Ecco, appunto, direi... Direi che la seconda parte è verissima, effettivamente. Allora, Luca Dini, tu hai capito la protesta della scuola o ti sembra la solita protesta antigovernativa? Allora, premetto, sono figlio di insegnanti, quindi ho un profondo amore e rispetto per la scuola pubblica. Però secondo me bisognerebbe che si cominciasse a scendere in piazza anche per altre cose. Per esempio per il fatto che i professori che lavorano bene sono presi in giro da chi non fa niente, da chi si comporta in modo arbitrario in classe. E la verità è che oggi, questo che non si vuole dire, un preside o chiunque non può fare assolutamente nulla per muoversi contro un insegnante che si comporta male. Oh, bravo, dillo a voce grossa, non può fare niente. No, ma dillo a voce alta. E i genitori che si trovano in quelle situazioni sono disperati perché possono, cioè, se fanno qualcosa, l'insegnante ha il coltello dalla parte del manico, devono sostanzialmente ritirarsi, spostare i figli. Questa è una situazione comunque che non è accettabile. Cioè, non è accettabile per niente. Guarda, no. Chiunque parli, io ho due figli che vanno all'elementare, chiunque parli con degli insegnanti, e sono la stragrande maggioranza, lo diciamo sempre, onesti, che fanno il loro lavoro, bravi, ti dicono che ci sono insegnanti che usano il telefonino in classe, insegnanti che fanno la spesa online durante le lezioni, insegnanti che non gliene frega niente. Non... Ma anche insegnanti carogne che... insomma, cioè, esistono dei metodi, ci devono essere dei criteri nella valutazione, nel comportamento. Il grande direttore. E gli altri professori, la maggior parte degli insegnanti, che come dici tu sono persone straordinari che fanno il loro lavoro. Sottopagate, però sottolineo. Pagati comunque, perché sì, non è sottopagati anche perché c'è appunto quel sistema che denunci tu, per cui il professore bravo viene deriso invece che premiato, viene isolato. Però non invece fa abbastanza. Però perché non scendono in piazza quelli? Perché non scendono in strada quelli che lavorano presi in giro dai colleghi che fanno poco o niente? Chiedo al direttore se vorrebbe la marcia dei colletti bianchi dei professori. Cioè, un pochino sì. Io di questo purtroppo non sento mai parlare. Non senti e mai invece parlare. Chiunque frequenti la scuola sa che questo è un problema gigantesco. Perché quando andavo a scuola io, c'erano anche allora le classiche scrostate, i soffitti che cadevano. Mm. E io ho frequentato classi praticamente aule terremotate, però se i professori erano bravi... Anche diciamo il prato diventa come ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice, si firma Roby, non lo so, denuncia un somaro professore, la ritorsione contro tuo figlio è assicurata. È un po' così purtroppo. Ed è qui quando si dice il gran potere dei sindacati, che non vogliono, cosa si vuole, dai, la scuola, Paola figlia del 68, premi per tutti, avanti tutti, scatti di anzianità per tutti. È giustissimo quello che stava dicendo il direttore, si dovrebbe, e per ricollegarci a quanto espresso evidentemente da Renzi, si dovrebbe parlare di scuola, continuare a parlare di scuola fuori dalla manifestazione e fuori dalle discussioni che portano in piazza tantissimi, con i diretti interessati. Vedete, tra voi due e la sottoscritta corre la distanza che corre tra genitori, tra persone che hanno bambini e bambini in età prettamente scolare o ragazzi in età scolare, e la sottoscritta che i figli non ne ha e che quindi ha una conoscenza del mondo attuale della scuola assolutamente ridotta. Vale il principio del professore che non sappia fare niente. Io ho lasciato un quarto ginnasio per colpa, ed è stata la mia immensa fortuna, di una specie di nazista arpia che ne faceva di tutti i colori, ma è stata la mia fortuna perché sono finita in una scuola di periferia dove ho trovato dei professori che, bravi così, io me li ricordo ancora oggi. Immaginati adesso di trovare di fronte, mentre sei in macchina, questa ex professoressa Arpia. Dove? Ma brutta persona! Ecco. Allora, solo per te, Paola Saluzzi, e soprattutto per te c'è il traffico. Poi rientriamo. Poi rientriamo. A Milan, io voglio sentire il traffico. 24 mattino. Io ero in visita a Milano il giorno in cui c'era queste proteste dell'Expo. La mia macchina è stata danneggiata. È un Audi, ma sapete, è un Audi del 2008, ha già 7 anni quella macchina lì, e l'ho pagata 8.500 euro per la precisione, a rate. Altro che colpire i simboli del lusso e della ricchezza e quelle puttanate lì, siete un branco di stronzi! Ma Milan, ma leggo un pranzo giapponese all'Expo 115 euro. Ma è roba da pazzi, come fanno a sfamare i poveri? Milan, hai rotto il cazzo con sta sigla di Benigni, dai, adesso basta, la cazzo di legge l'hanno fatta, basta. Se avessi un figlio ancora minorenne che è fan di uno come Fedez, lo mando in collegio. Milan, adesso che la legge elettorale è passata, volevo informarti che siamo entrati nella quarta settimana decisiva per l'inizio delle trasmissioni alle ore 6. Ciao Milan! A te era il... che faccio io sempre per questa petizione che gira. Cosa ridi, Luca Dini? Che poi dopo, se inizia alle 6, secondo te chi inizia a chiamare? Non è che voglio dire, siamo tutti nella stessa barca, se deve affondare che fai, Schettino? Non ho capito. Anche le 5. Sì. Alino, per te anche alle 5. Sì, certo. Va bene. Poi tu ti devi svegliare alle 3. Esatto, io togliete sempre un'ora e mezza dall'inizio della trasmissione per fare un po' il camionista, e più o meno ci siamo. Allora. Vabbè, archiviamo la questione della scuola. È stata rilanciata. Posso sì. aggiungere solo una cosa? Come volevo no? dire che cioè, sembra che il problema della scuola sia che non c'è la carta igienica. I genitori sarebbero strafelici di portare pacchi e pacchi di carta igienica. Ma avere una scuola che funziona. Se avessero tolti alcuni problemi. Esatto, esatto. No, no, sono assolutamente d'accordo. Adesso questa cosa manca. Però torniamoci noi sulla scuola. Noi, nel senso, noi. Me lo fate dire, magnifici tre del mercoledì. Torniamoci anche quando sembrerà che la cosa non interessi più, ma abbia i fari spenti. Quando faccio le puntate sulla scuola, sono tra le puntate più seguite. È sempre così, ma giustamente perché è un qualcosa che impatta tutti noi. Allora, vi voglio chiedere questa cosa. Si è rilanciata l'idea della prostituzione, di legalizzare la prostituzione. Vabbè, Salvini ha rilanciato la raccolta firme. Io ne parlerò oggi perché c'è questa vicenda a Rimini, sì. Dove alcune prostitute sono state messe in regola dall'Agenzia delle Entrate. Però l'hanno fatto per prendere dei soldi, cioè parliamoci chiaro, lo Stato. A parte che Salvini fa questa premessa su di lui, sul fatto che lui non è mai andato a prostitute. Lei è mai stato con una prostituta? No, però non do giudizi morali su chi ci va e chi fa quel lavoro lì. Mi piacerebbe che avesse i diritti e i doveri di tutti gli altri lavoratori, quindi avesse garanzie, avesse tutele e pagasse le tasse. Allora, su questo, Luca Dini, al netto che l'ha detto Salvini, secondo me questa cosa un pochino già ti nervosisce, ma cosa ne pensi del tema in sé? Ma cercherò appunto di astrarre e dico che io penso onestamente che quando una cosa che viene proibita per legge continua ad esserci in modo selvaggio bisogna fare qualche domanda. Perché io quello che penso è che la scelta libera di fare quello che uno vuole del proprio corpo sia una scelta libera. Però si dice non esiste una libertà, cioè una donna liberamente non si prostituirà mai. Questo per esempio Mario Adinolfi ieri ci ha detto: non esiste una donna che liberamente vende il proprio corpo. Io questo non lo credo. Cioè, è comunque quello che bisogna sicuramente. Cioè, quello che succede adesso è che la cosa è proibita per legge e quindi esistono degli sfruttatori che ritirano i passaporti alle immigrate. Cioè, la situazione attuale è terrificante. Quindi, secondo me. Una regolamentazione ci vuole. Una regolamentazione. Paola Saluzzi, tu che dici? Libertà vera. Sei vicino alla Salaria, che lì è zona... No, già superato, dove peraltro continuano a essere presenti a tratti, no? A volte nessuna più, sì. Altre volte a tutte le ore del giorno, e sinceramente non mi danno l'idea di essere delle libere professioniste, nell'accezione tecnica del termine. Non credo quello che dice Mario Di Nolfi. Io penso che ci siano donne che possano decidere, vogliano decidere, di fare questo mestiere, ma sono delle mosche bianche, perché allora mi domando: la partita IVA la chiediamo a loro o la chiediamo ai papponi schifosi, luridi, assassini, non potenziali, assassini reali, perché anni di amicizia con Dolores Benzi mi hanno portato all'amore e all'onore di conoscerlo, alla conoscenza di storie agghiaccianti. Tu non ti vuoi prostituire? Allora ti prendo, ti brucio viva. Vabbè, ma in quei casi, l'abbiamo detto, non ci deve essere pietà. In quei casi non ci deve essere pietà. Chiediamo una partita IVA a questi? Non lo so. Però allora, questa è la verità diffusa. Non è rara. Però che facciamo? Questo chiederei a Salvini. Salvini dice che bisogna regolamentare. Benissimo, con chi? Con le donne? Che di quella della cifra che orribilmente guadagnano, vedono una quota. Ma è chiaro che la posizione è: laddove c'è costrizione, sfruttamento, eccetera, questi sono crimini e traffici che vanno stroncati. E laddove invece c'è una libertà totale, libera scelta di volere vendere il proprio corpo, diventa un lavoro come un altro. Questa avremo posizione. Pochissime partite IVA allora in quel caso. Pochissime le donne che potranno dire: io scelgo di fare questo mestiere. Questo anch'io lo credo. La Sofia Loren Mara di ieri, oggi e domani, di quel capolavoro di Vittorio De Sica, ultimo episodio, che fa la prostituta nella sua casetta in cima a Piazza Navona, anni 60, è una è una poesia, sì, è una cosa lontana. Allora, allora io devo chiudere qui, ho il numero sulla cassia, oh, sei sulla cassa. E come va, tutto scorre? È un traffico medio, medio, diciamo, vabbè, medio. Sulla cassia traffico medio, lo dice Paola Salute. Fai una strombazzata sulla cassia. Ma sì, ma parliamone. Vabbè, vabbè. Allora, su Vanity Fair c'è Jennifer Aniston in prima di copertina, che è l'ex di Brad Pitt, giusto? Questa volta ci ho azzeccato, caro Lucadini, vedi che anch'io qualcosa so. Però vi segnalo un bel articolo, un bel pezzo di qualche pagina sul genocidio armeno. Possiamo dirlo, Lucadini? Perché se ci sentono in Turchia, genocidio armeno, è una roba assurda. Diciamolo ad alta voce, anche se in Turchia si arrabbia, è una storia incredibile, cioè da 100 anni che c'è stato questo genocidio, però in Turchia non si può dire, ti mettono in carcere se dici questa cosa. Vi segnalo questa cosa, possiamo dire genocidio armeno, sì, genocidio armeno, vi dovete vergognare, possiamo dirlo. Chissà che cosa pensano gli altri automobilisti. Chissà, prova a tirare giù il finestrino e urlare genocidio armeno. Così ti portano. Se devono da vergognare. Così ti portano in camicia di forza e via, a casa. Via, via, direttamente dalla cassia, direttamente un TSO per Paola Saluzzi. No, che la troviamo alle 15 su Sky, a Sky TG24 pomeriggio. Vi devo abbracciare e salutare. Alla prossima. Grande Alina, alla prossima. Lasciamo con Sordi. E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, cari ascoltatori. Allora, siamo pronti come sempre a leggere i giornali a quest'ora. Vi ricordo che oggi affronteremo che cosa? Due temi: il tema dell'immigrazione. Avremo ospite con noi Carlotta Sami, che è responsabile dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU in Italia. E parleremo però anche prima di quel caso della prostituta a Rimini che l'Agenzia delle Entrate ha regolarizzato dandole una regolare partita IVA. Ma come? Proprio tra l'altro nei giorni in cui la Lega soprattutto rilancia il tema della legalizzazione della prostituzione. Ma come? Allora, se danno una partita IVA a una lavoratrice così, vuol dire che la considerano un lavoro come gli altri. Avremo ospite l'avvocato di questa prostituta e avremo ospite anche la senatrice Spilabotte del Partito Democratico, che sta portando avanti un disegno di legge bipartisan per legalizzare la prostituzione. Questo dalle 8:15. State con noi, intanto tuffiamoci nella lettura dei quotidiani. In questo mercoledì 6 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'allarme Grecia in borsa, balzo dei tassi Eurozona, questa è l'apertura sulle attenzioni della comunità europea nei confronti di Atene e le mosse del governo Tsipras. Poi la scuola, per il Corriere della Sera, dopo il giorno delle proteste, scuola, dialogo dopo la protesta, è il titolo di prima pagina. Per la Stampa, il governo apre sui premi ai docenti. Il Messaggero, prof in piazza, piano del governo. Per il Fatto Quotidiano, la scuola sfiducia Renzi. Il Manifesto mette la foto della grande manifestazione col titolo L'insegnamento. Repubblica invece torna sulla legge elettorale, Mattarella i tre sì all'Italicum, dice Repubblica, oggi il Quirinale firmerà la legge. Per Libero, anche il fisco si arrende, non usate il nostro 730. Mentre l'apertura del giornale è dedicata alla prima notizia che voglio approfondire, ed è questa: Rolex sfiducia Renzi, titolo di prima pagina. Che è successo? È successo che Oggi sui giornali troverete quella che può apparire una pagina pubblicitaria, che quindi raramente non dovrebbe entrare come notizia, ma diventa una notizia da leggere in rassegna stampa, interessante perché la pubblicità è firmata da Giampaolo Marini, che è l'amministratore delegato di Rolex Italia S.p.A. A quelli della Rolex non è piaciuto affatto che il governo, nelle persone di Renzi e Alfano, abbiano, come dire, detto durante le manifestazioni del primo maggio e gli scontri a Milano: guardate, ci sono i soliti farabutti col cappuccio e figli di papà con il Rolex. Allora l'azienda, per mano del suo amministratore delegato, prende carta e penna. Egregi signori, è un'intera pagina che leggo da vari quotidiani, questa l'ho trovata sul Corriere della Sera. Vi indirizzo la presente nella mia qualità di amministratore delegato di Rolex Italia. Il messaggio: sconfitti, soliti farabutti col cappuccio e figli di papà con il Rolex, che voi avete detto: se personalmente, come cittadino di Milano, nell'occasione non ho potuto che apprezzare il sacrificio e la dedizione delle forze dell'ordine, debbo invece per la mia carica esprimere profondo rincrescimento e disappunto per l'associazione insita nelle vostre parole tra la condizione di distruttori di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso. Al di là del fatto che è altamente improbabile desumere un'affidabile identificazione come Rolex e per di più autentico dell'orologio indossato dai facinorosi, purtroppo l'eco suscitata dalle vostre parole è stata straordinariamente vasta e ha prodotto l'inaccettabile affiancamento dell'immagine del Rolex alla devastazione di Milano e all'universo della violenza eversiva. Insomma, conclude questa lettera, appello accorata: chiedo e confido in una vostra cortese dichiarazione di rettifica. Con ossequi. La lettera pubblicata a pagamento da Rolex su molti quotidiani e indirizzata al presidente del Consiglio Renzi e al ministro dell'Interno Alfano. E vabbè, ci mancava anche questa, con Rolex arrabbiata con il presidente del Consiglio come strascico delle scontri del primo maggio. Invece, che sta succedendo all'unità che non c'è più e che forse ci sarà, ma forse non si sa? Ieri abbiamo letto l'intervista all'editore Guido Veneziani, che ha comprato e vuole rimettere in edicola l'unità e che dice: Renzi, affrettati per scegliere il direttore, noi siamo pronti. Succede che l'unità vecchia va a finire nei guai il direttore di allora, Concita De Gregorio, e alcuni giornalisti, perché da quando l'unità è fallita, ed è fallita dunque l'editrice, la società editrice, la NIE, cosa succede? Che erano rimaste aperte alcune posizioni di querele nei confronti dell'unità. E allora chi paga queste querele? I giornalisti. Un qualcosa che in genere non succede, perché c'è appunto la responsabilità dell'editore in solido. Di solito, quando succedono queste cose, in fuga dai debiti dell'unità pagano solo i giornalisti. Il PD e Soru si tirano fuori. Soru viene indicato perché è un precedente proprietario dell'unità. Sebastiano Messina dedica una pagina 15 su Repubblica, questo, a raccontare l'editore che sparisce inghiottito dalla liquidazione della società, un partito che disconosce quello che una volta era il suo giornale e ancora oggi la bandiera delle sue feste. E così gli ex direttori dell'unità, Concita De Gregorio, Claudio Sardo e Luca Landò, si trovano da un giorno all'altro a dover risarcire di tasca loro i potenti che hanno fatto causa al quotidiano. 8 mesi fa la De Gregorio hanno bussato, l'ufficiale giudiziario ha chiesto una notifica, ha consegnato 40 pignoramenti, la casa, i redditi, i beni, tutto pignorato fino a 400.000 euro. È successo anche a una giornalista, Natalia Lombardo, alla quale è stata pignorata la casa perché doveva pagare 18.000 euro. Ieri c'è stata una conferenza stampa alla Camera con il sindacato dei giornalisti da federazione, che ha fatto appello a dire qualcuno aiuti. Per la verità, Guido Veneziani, cioè l'editore che vuole far rinascere l'unità, ha detto ieri nell'intervista al Fatto Quotidiano di avere accantonato questi soldi per pagare quando rinascerà l'unità lui al lui come nuovo editore al posto dei giornalisti. Sta di fatto però che su Guido Veneziani c'è un piccolo giallo, come racconta il Corriere della Sera a pagina 15, ed è questo: Guido Veneziani che vuole rilanciare l'Unità, ma che succede? È già editore di altre testate e nel gruppo di Veneziani da ieri i giornalisti sono in sciopero a oltranza dopo non aver ricevuto la 13ª e gli ultimi 3 stipendi. Questo racconta il Corriere della Sera. Come dire, l'associazione, se questa è la premessa, chissà che succede. Vabbè, staremo davvero a vedere. Intanto due notizie dalla Camera, una di quelle che fa un pochino arrabbiare, non è il premio Mani sul Volante, ma sapete che sono comparse immortalate da fotografi nei giorni scorsi durante le votazioni alla Camera le palline da gatto. Le palline da gatto, voi dice, ma che cavolo è le palline da gatto? Sì, le palline, sapete quelle palline un po' semirigide, sembra un po' peloso, per far giocare i gatti, no? Gliela butti lì e il gatto si diverte. È solo che alla Camera, con metodo trovato ed escogitato e scovato da Rosy Bindi, pare, così almeno denuncia Libero, sono comparse queste palline per gatti perché vengono utilizzate invece delle più scomode palline di carta per essere inserite nel punto in cui bisogna schiacciare il pulsante per la votazione, perché pare che queste palline di gatto siano della dimensione perfetta e giusta per tenere il pulsante schiacciato anche se uno non è seduto al proprio scranno. Ci siamo capiti cosa vuol dire? Cioè risulta che uno vota anche se magari va a farsi un giro di 2-3 ore, basta mettere questa pallina, il pulsante del voto rimane schiacciato in maniera perenne, tanto magari un parlamentare sa che deve, in quelle votazioni del giorno deve votare sempre sì o sempre no, pigia con la pallina il pulsante, lo tiene bloccato e risulta che è presente e invece no. È tutto immortalato da foto e Libero denuncia se il pianista è colui appunto che in Parlamento prima venivano immortalati, votavano anche per il vicino, no? Con questi gesti allungandosi con una mano destra e una mano sinistra. Se il pianista è di sinistra non gli spara nessuno, il trucco della Bindi. Palline per gatti per bloccare il pulsante delle votazioni, ma a differenza del passato, denuncia Marco Gorra in una pagina di Libero, nessuno protesta. E come mai? Come mai? A proposito di Camera, vi preannuncio che il 7 maggio, cioè domani, è prevista la votazione, pare definitiva, mi verrebbe da dire decisiva, se non rischio di scadere nel ridicolo, per eliminare il vitalizio agli ex parlamentari che hanno una condanna per alcuni reati gravi soprattutto. Ma attenzione, il Corriere fa una denuncia con Emanuele Buzzi a pagina 15. La denuncia per la verità viene dalla una dei questori della Camera, Laura Bottici del Movimento 5 Stelle, questore del Senato, a dire la verità, senatrice Bottici, che dice: attenzione, secondo indiscrezioni vogliono fare alcune modifiche e introdurre una sospensiva. In sostanza, secondo questa visione, il condannato che fa richiesta di riabilitazione può riottenere il vitalizio e pare siano stati eliminati anche alcuni reati come l'abuso d'ufficio. Insomma, se passa così, il rischio è che molti condannati hanno già svolto e ottenuto la riabilitazione, quindi non sarebbero toccati dal provvedimento. E cioè, denuncia la senatrice Bottici, stanno facendo un provvedimento a metà. Vigileremo e cercheremo di capirci qualcosa nei prossimi giorni. Ma intanto vi voglio lasciare con l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata e riguarda la vicenda di un paese, Platì, Reggio Calabria, Calabria, Italia. Platì, dove nessuno vuole fare il sindaco. Giuseppe Baldessarro racconta a pagina 13 di Repubblica: anche stavolta nulla di fatto, alle comunali non si presenta nessuno. Nessuno che vuole fare il sindaco. La comunità di Platì è destinata ad altri mesi di commissariamento, a un altro lungo periodo di democrazia incompiuta per insipienza dei partiti, sfiducia nelle istituzioni, insomma, tranne qualche breve parentesi, è dal 2003 da quando un'operazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria portò all'arresto dell'allora sindaco, del suo vice, una manciata tra assessori e consiglieri comunali, che nessuno si candida. Platì, Calabria, Italia. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Rossello Brescia dell'informazione. Oh, evviva, evviva. Allora, evviva Rossella Brescia, alla quale mandiamo come sempre un caloroso abbraccio. Allora, la scuola. Ieri la scuola ha protestato molto compatta, i sindacati, i professori, docenti, studenti, tutti in piazza contro la riforma della scuola. Del governo Renzi. Ci sono molti articoli su questo, molti giornali aprono e ci sono alcuni articoli interessanti che vi voglio segnalare. Intanto retroscena di Marco Galluzzo, pagina 3 del Corriere della Sera, la reazione di Renzi. Dicono che Renzi sia molto arrabbiato. Renzi, sapete che dà uno spazio fondamentale al modo di comunicare le cose. E questa volta pare sia arrabbiato perché dice: non siamo riusciti, abbiamo perso la battaglia della comunicazione. Cioè, queste immagini di tutta la scuola in piazza contro il governo, e il governo non è riuscito a opporre una comunicazione efficace sul tema della scuola. Comunque, dice Renzi, la scuola italiana non è dei sindacati, è degli studenti, del loro futuro, e negli ultimi decenni questo futuro non lo ha costruito. Con questa riforma, per la prima volta, l'autonomia non è solo una parola introdotta da Berlinguer, ma un concetto su cui investiamo e cambiamo tutto. Dunque, la linea di Renzi è: dialoghiamo, se c'è qualche modifica da fare bene, ma sui punti sostanziali non si cambia la riforma. In realtà, su alcuni punti sostanziali la riforma è già cambiata. Come racconta Francesca Schianchi a pagina 3 della Stampa, Renzi apre sui premi ai docenti, un comitato affiancherà i presidi. Una delle critiche è: troppo potere ai dirigenti scolastici, o presidi, come li volete chiamare, per essere più cari, presidi. Il piano dell'offerta formativa non sarà più solo in capo al preside. Questa è una delle modifiche accettate da Renzi. Lui darà l'indirizzo, ma il piano verrà elaborato dal collegio docente e approvato dal consiglio d'istituto. E c'è un altro punto molto criticato su cui il premier ha aperto coi parlamentari: la modifica della responsabilità di scelta dei professori da premiare, per i quali sono stati stanziati 200 milioni. Non è più solo una scelta del preside solo, cioè a chi dare i premi, ma nell'individuare i più meritevoli, un emendamento del PD che è passato con la benedizione del governo stabilisce che il preside sarà affiancato da un comitato di valutazione nominato dal consiglio d'istituto. C'è però un punto sul quale Renzi dice: qui non demordiamo, e cioè va bene mitigare i poteri del dirigente scolastico sui premi e sull'offerta formativa, ma sulla scelta dei docenti, una volta stabiliti i criteri chiari e trasparenti, deve essere lui il responsabile delle decisioni prese. Questo è il senso dell'autonomia della scuola. Anche sul Sole 24 Ore però arrivano alcune critiche. Il provvedimento è analizzato molto bene sul Sole, il merito, le assunzioni, l'alternanza scuola-lavoro, la valutazione, le misure per gli studenti, l'autonomia. Ci sono tutti questi punti della riforma e ci sono i punti di forza, i punti di debolezza e i nodi da sciogliere. Quindi a pagina 6 del Sole la riforma della scuola veramente è radiografata, potete avere una panoramica molto chiara di tutto quello che va bene e quello che va meno bene. Eugenio Bruno e Claudio Tucci fanno un commento e scrivono: se è vero che da 7 anni nessun governo si occupava di scuola per cambiarla, è ancor più vero che bisogna evitare il rischio di intervenire tanto per farlo. Ciò implica che se si vuole continuare a parlare di riforma della scuola è necessario che le gambe su cui si è scelto di farla camminare, autonomia, valutazione, merito, assunzioni, continuino e camminino all'unisono, evitando cedimenti e disarticolazioni. Invece i segnali giunti dalla Camera non sono incoraggianti. Si pensi appunto al dietrofront sul potere dei presidi, che dovrebbero mantenere la chiamata diretta sui docenti aggiuntivi, ma hanno già perso per strada la titolarità del piano dell'offerta formativa, visto che la vera carta d'identità della singola scuola sarà elaborata dal collegio docenti e approvata dal collegio d'istituto. A maggior ragione il discorso di valutazione e merito, che nascono come legata a doppio filo e che tali dovrebbero restare. specie dopo il cedimento sugli scatti di anzianità che sono sopravvissuti alla riforma, continuando a far dell'istruzione un unicum dell'intera pubblica amministrazione, e a già limitare a 200 milioni la dote per i premi ad personam agli insegnanti, sarebbe un miglioramento quasi irrilevante rispetto alla situazione attuale, per cui andrebbe scongiurata l'ipotesi, messa nero su bianco in alcune proposte di modifica di maggioranza, di affiancare anche qui al dirigente scolastico il collegio d'istituto nella scelta dei prof da valorizzare. Però sono i punti sui quali invece Renzi pensa di fare alcune concessioni, e cioè limitare un po' l'autonomia dei dirigenti scolastici, affiancando nella scelta per esempio di chi dare, a chi dare i premi, anche il collegio d'istituto. Certo, la riforma della scuola è uno dei punti più di discussione, dibattito parlamentare e di contrasto, ma in realtà è interessante anche ciò che Francesco Verderami scrive sul Corriere della Sera, pagina 13, perché non è solo la scuola l'orizzonte di Renzi, è un Renzi che appunto da una parte, come scrive Verderami, sulla scuola gli dà molto è molto infastidito per il fatto di non essere riuscito a bucare dal punto di vista della comunicazione. Non teme invece il referendum sull'Italicum, che considera già morto. Questa è la linea di Renzi ai suoi. Non è preoccupato dalla navigazione al Senato, dove avremo i voti necessari per andare avanti, dice con sicumera Matteo Renzi. Quello che però è preoccupante per Renzi è la situazione economica. Non solo la questione delle pensioni da restituire dopo la bocciatura parziale della consulta alla legge Fornero, ma, dice Renzi, i risultati arriveranno, bisogna però resistere e saper tenere duro. È la ripresa economica il vero scoglio del Premier. Questo è il titolo dell'articolo retroscena di Francesco Verderami per raccontare che Renzi è preoccupato dalla ripresa economica. Dice: nel 2016 sarà un anno buono per l'Italia, queste sono le ultime indicazioni europee. Certo, per esempio è scomparsa la vicenda del tesoretto. Dov'è il tesoretto? Se ne è parlato, dov'è il tesoretto? E infatti Verderami dice che da una settimana la parola tesoretto è scomparsa letteralmente dal lessico di Palazzo Chigi, al governo non ne parla più nessuno, ed è scomparsa dalla contesa nel dibattito politico tra chi giurava sull'esistenza di questo piccolo gruzzolo e chi invece lo definiva un miraggio preelettorale. Il tesoretto non c'è più. Comunque, la ripresa economica chissà se ci sarà. Non è preoccupata invece dall'Italicum. Secondo Renzi il referendum, anche se Calderoli dice abbiamo già raccolto e scritto il referendum per cancellare alcune parti dell'Italicum, Renzi non è per nulla preoccupato. Non è neanche per nulla preoccupato dalla firma del capo dello Stato, che, data per certa ieri dalla stampa, viene data per certa oggi da Repubblica. Addirittura il Corriere della Sera, in sprezzo del ridicolo, definisce quella di oggi la giornata decisiva, giuro, decisiva per la firma di Sergio Mattarella. Comunque, secondo Goffredo De Marchis, il cui retroscena trovate a pagina 6 di Repubblica, i tre sì del capo dello Stato alla nuova legge elettorale. La firma di Mattarella in calcio alla nuova legge elettorale è ormai questione di ore, giura Repubblica. La scelta rapida del Presidente della Repubblica dipende da due fattori. Il primo, squisitamente tecnico. L'Italicum non richiede un lungo studio da parte degli uffici del Quirinale. È una norma ben conosciuta e identica rispetto a quella approvata al Senato. Il secondo fattore si muove sul confine politico-istituzionale e entra nel vivo delle motivazioni per le quali il capo dello Stato prenderà senza tentennamenti la penna per mettere il suo autografo, malgrado l'appello contrario di una parte delle opposizioni. Dunque Mattarella oggi firmerà. D'altronde è la giornata decisiva. Né vero, Mauro Meazza, né vero? Buongiorno Alessandro, sono lusingato di venire bene. Appena dopo la citazione del Presidente della Repubblica, aspetta che mi metto anche mettiti un po' in ordine. Sì, no, sono già in piedi, ci mancherebbe altro. Volevo dirti, a proposito di Italicum, abbiamo fatto una proiezione dei sondaggi, come succederebbe appunto proiettando gli ultimi sondaggi con la legge elettorale nuova, adesso alla firma del Presidente della Repubblica, abbiamo una pagina che dimostra come potrebbero uscire, come potrebbe uscire la composizione della del Parlamento. Tra i vincitori mi sembra di capire o il PD o il Movimento 5 Stelle, sono le due forze politiche. Sono le due ipotesi, sì, che vengono prese in considerazione. Naturalmente non è significativo per la parte dei sondaggi, ma più che altro per come vengono ridistribuiti i seggi. Infatti questo è anche il senso della nostra pagina. Ma vorrei farti un po' di ripassino di inglese. Mm-hmm. Dovresti segnarti queste parole. Reverse charge. Bad bank. Blacklist. Ci sei? Ci sono. Ecco, allora, caro amico di Radio 24, il reverse charge esteso alla grande distribuzione potrebbe essere bocciato, non piace all'Unione Europea. Quindi c'è, insomma, da coprire, ci sarebbe da coprire un ammanco, questa volta piccolino, non è una cosa così, diciamo, impegnativa come la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, ma comunque se leggi Pesole sul Sole 24 di oggi ti spiega che il problema del reverse charge, cioè l'inversione contabile dell'IVA, potrebbe darci un altro grattacapo questo. Oh. Per quanto riguarda Bruxelles, che come sai ti guarda, sai che guarda più che me. Per quanto riguarda la bad bank, cioè la soluzione per i crediti deteriorati, per i crediti non più performanti delle banche, siamo in trattativa. Il ministro Padoan riferisce sulle pagine di Finanza che stiamo cercando un'intesa con di nuovo Bruxelles, che ricordi Alessandro che ti guarda, quindi comportati bene anche per aiutare la missione del ministro Padoan. E infine le blacklist, cioè quegli stati che hanno una fiscalità molto generosa, ebbene sono state riviste per quanto riguarda alcuni tipi di costi sostenuti alle imprese. Dove vai spesso in vacanza tu, stranamente, quegli stati, ma dove tu hai depositato i 2 eurini, insomma, adesso diciamolo, dai, giù la maschera. Comunque non riguarda per il momento le persone fisiche, stiamo parlando di costi per le controllate estere, ma se leggi norme e tributi oggi tutto ti sarà chiaro. Ottimo. E guarda, avrei molte altre cose da dirti, ma mi fermo qui anche perché devi ripassare parecchie parole in inglese, quindi non voglio appesantirti. Ti dico solo che se ti danno i permessi ex legge 104, cioè quelli per assistere un parente che ha bisogno, e poi vai a ballare, c'è un piccolo ti licenziano. È scritto oggi su norme e tributi, è giusta causa. Insomma, non si può giocare con questo tipo di permessi. Lo scriviamo oggi su norme e tributi. Una buona notizia: se tu fai ricorso contro una multa e vinci, e non devono compensare le spese di giudizio. C'è stata una tirata d'orecchi per un tribunale che aveva deciso di compensare, cioè di suddividere tra l'ente e l'automobilista. E come mai ti parlo proprio di questioni di viabilità adesso? Chissà perché. Traffico! Alessandro Milan, il Max Allegri dell'informazione. Dai, lo schema Allegri. Bravi, lo schema Allegri che prevede dai. E Rigorini generosi sta fruttando moltissimo la Juventus. Bravo. Il prossimo che mi scrive rigore per il Milan su Twitter lo vengo a prendere sotto casa. Io vi avviso, siete ridicoli. Allora, Berlusconi invece sta pensando a rilanciare il partito, e questo lo abbiamo detto tante volte, lo scrivono i giornali. Carmelo Lopapa dice che c'è ora un piano nella mente di Silvio Berlusconi, ed è quello di trasformare il nuovo centrodestra che sarà, ecco, non inteso come il partito di Alfano, trasformare Forza Italia nel partito repubblicano americano. Tanto che, scrive Carmelo Lopapa, dice: vedrete che in autunno porto qui il mio grande amico George Bush e lo lanciamo alla grande nel cantiere dei repubblicani. È la stessa cosa che già ha annunciato Sarkozy in Francia, anzi l'ha bruciato sul tempo, racconta Repubblica con Carmelo Lo Papa, annunciando il cambio di nome dell'UMP in Repubblicani. Ma Berlusconi dice: vogliamo fare questo, partito leggero, nessun organismo dirigente, un comitato elettorale che entrerà nel vivo giusto per il voto. Magari mettiamo insieme una serie di fondazioni che lavorino sul territorio per produrre idee e drenare finanziamenti. Ecco, vabbè, messa così è un po' brutale, ma raccogliere finanziamenti. Questo progetto sarebbe già stato sottoposto a Micaela Biancofiore, che dovrebbe portare avanti questo progetto, trasformare Forza Italia sulla stregua del Partito dei Repubblicani Americani. Vabbè, andiamo ad alcune notizie di cronaca che mi hanno colpito e sono molto interessanti. Vi segnalo questa pagina del Secolo XIX, è un convegno, un allarme che verrà lanciato oggi dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a Milano. Lancerà e presenterà il rapporto sul consumo del territorio. L'allarme dell'ISPRA è questo: il cemento, vabbè, il Secolo XIX lo focalizza molto sulla Liguria, ovviamente. Il cemento divora la Liguria, ma si continua a costruire. In Italia, nonostante la crisi, si edificano ancora 7 metri quadri al secondo come media. E se negli anni 50 le aree occupate dall'urbanizzazione coprivano poco più di 8.000 km quadrati, nel 2014 siamo arrivati a 21.000 km quadrati, 4 volte l'estensione della Liguria, il 7% del territorio nazionale. Il responsabile di questo report dell'ISPRA, Michele Munafò, denuncia: perdere suolo significa aumentare lo smog, diminuire la biodiversità, aumentare progressivamente i rischi idrogeologici. Quel che peggio è che è facile andare avanti, ma è difficile tornare indietro. In questa pagina di Alessandro Palmesino, pagina 6 del Secolo XIX, c'è questa denuncia di come si continui a cementificare un territorio che è già un territorio per molti aspetti fragile, come si è detto varie volte. Sulla cronaca noi avremo ospite Carlotta Sami dell'Alto Commissariato dell'ONU, avremo ospite anche il sindaco di Pozzallo in provincia di Ragusa, perché ci sono stati altri arrivi, altri sbarchi, anche migranti malati, va detto, con scabbia e varicella, e per questo messi in isolamento. Ci sono poi le testimonianze di 40 morti nell'ultimo naufragio. Ormai le cifre così si accavallano, si rincorrono, e noi ne parleremo dalle 8:40. Trovate ovviamente la cronaca sui giornali, che poi approfondiremo. Mi ha colpito invece il titolo, che diventa un titolo di apertura per Il Giorno, ed è legato al Giubileo. È una decisione presa dal Papa ed è questa: assolvete l'aborto. Questo è il titolo di prima pagina del Giorno. Il Papa ai missionari del Giubileo dice: andate e perdonate l'aborto. Nina Fabrizio racconta a pagina 8 del Giorno: misericordia in dosi massicce, senza limiti, dispensate in abbondanza per mostrare il volto di una chiesa accogliente. Così il Papa prepara l'ultima svolta, dimostrandosi pronto a togliere la scomunica che scatta in automatico a chi ha compiuto l'aborto. Ai missionari della misericordia, gli inviati speciali che saranno spediti in tutte le diocesi in occasione del prossimo Giubileo della Misericordia, per assolvere i peccati più gravi fino a quelli riservati alla sede apostolica, Bergoglio ha concesso la facoltà di rimettere in confessione la scomunica per l'aborto procurato. Quello di Francesco, spiega Monsignor Rino Fisichella, che presiede il Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione e regista del Giubileo, ha spiegato che vuole essere un segno concreto di vicinanza. Certo, c'è anche un'intervista, sempre sul Giorno, al Cardinale De Paulis, definito un falco su questi temi. Quel peccato non si cancella. Giovanni Panettiere lo intervista, pagina 9, dice il Cardinale De Paulis: l'aborto resta un peccato. Non è che il Papa ha deciso di abrogarlo, questo va chiarito subito, per evitare fraintendimenti, fughe in avanti, che in una materia delicata come la difesa della vita non hanno alcun senso. È un fatto normale, però, che in occasione di un evento altamente spirituale come un Giubileo, per giunta sulla misericordia, la Chiesa venga incontro ai peccatori e tolga tutti gli ostacoli per permettere la soluzione di un peccato gravissimo come l'aborto, così il cardinale De Paolis. Tra l'altro il Messaggero su questo tema del Giubileo racconta che il Papa ha tenuto segreto l'evento del Giubileo per 5 mesi e assicura al Messaggero con Franca Giansoldati: guardate che in Vaticano non è facile tenere un segreto, anche quando è stato annunciato i cardinali sono trasecolati e anche Renzi è stato preso alla sprovvista, così il sindaco Marino. Insomma, per 5 mesi, dall'agosto del 2014, il Papa pensava di annunciare questo Giubileo ed è riuscito a tenerlo segreto per così tanto tempo. Vabbè, la Juve ha vinto, no limits, Juve Real Madrid 2-1, Juve no limits è il titolo della Gazzetta dello Sport e c'è il ritorno tra una settimana. Ma la carta costa oggi è una agiografia vera e propria, la carta costa è l'articolo più inutile scovato sui giornali, una agiografia bella e buona del giorno su 2 pagine per Maria Elena Boschi, a firma Francesco Ghidetti. Tosta e secchiona, il bello della Boschi è la sostanza, tutti a dire, a raccogliere testimonianze, a dire che non è bella, affascinante, è brava, mi colpisce il suo stile, un costituzionalista sotto anonimato dice in lei la forma è sostanza, ho assistito a telefonate con Napolitano che trasudavano rispetto estremo per le istituzioni, la Boschi che non è solo molle, lette, capelli, tailleur, gonne un po' ancien, ma anche studio, applicazione, disciplina. Ma chi se ne frega? BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, c'è un tema che di tanto in tanto torna in auge da decenni, per la verità, anche se in genere inutilmente, nel senso se ne discute molto, ma passi in avanti non se ne fanno, è quello della legalizzazione, o meglio la regolarizzazione della prostituzione. Insomma, abrogare quella legge Merlin che è in vigore dal 58, dunque sono 57 anni che se ne parla, e che ha smantellato le celebri case chiuse. Allora, da una parte c'è la politica, la Lega torna a raccogliere le firme per il referendum, ci hanno già provato un po' di tempo fa, non aveva raccolto abbastanza firme in tempo e ora ci riprovano, proprio da ieri è partita questa raccolta. Il segretario Salvini dice questo: vado a firmare il referendum per cancellare la legge Merlin, ripulire e tassare quello che è un lavoro. Un lavoro. Ecco, chi ha detto che la prostituzione non è di fatto già un fenomeno considerato regolare anche dal punto di vista del lavoro? Se tanto vi dà tanto le notizie che ieri sono state diffuse dai giornali, dal Giorno, oggi riprese da Libero, che riguardano una vicenda di Rimini, ci fa pensare così. Non è la prima volta che succede, ma succede a Rimini che l'Agenzia delle Entrate ha fatto dei controlli nei confronti di una signora in banca. Ha trovato un po' troppi soldi, l'ha convocata, la signora ha detto: io faccio la prostituta. E allora l'Agenzia delle Entrate che ha fatto? Le ha permesso di aprire una regolare partita IVA sotto la dicitura altri servizi alla persona. Se ha una partita IVA ha un lavoro, paga le tasse, chiede che in futuro possa avere la pensione. Insomma, allora, avvocato Marco Lunedei. Buongiorno, avvocato. Buongiorno Lunedei. A lei. Lei è l'avvocato della signora in questo. Di una persona stiamo parlando? Di più, una persona. Una persona. È successo ovviamente in estrema sintesi così: cioè, la signora ha una partita IVA regolare. Sì. Non perché l'abbia chiesta. Non l'ha chiesta, gliel'hanno imposta. Questo, gliel'hanno imposta. Nel momento in cui le chiedono di pagare le tasse, in cui l'Agenzia delle Entrate le dice: non hai pagato l'IVA, te la facciamo pagare ora. E ti sanzioniamo per non averla pagata spontaneamente, tu lavori, produci un reddito, devi pagare IRPEF e IVA, Sì. Allora noi ci siamo, appunto abbiamo accertato che tu produci un reddito, ti chiediamo ora le tasse, ti sanzioniamo, ti multiamo per non averle pagate spontaneamente. Avete capito il pragmatismo dell'Agenzia delle Entrate? E ti apriamo noi d'ufficio una partita IVA dal 1 gennaio dell'anno di cui ti abbiamo controllato. Cioè di fatto ci sta dicendo, avvocato Lunedei, che l'Agenzia delle Entrate lo ha fatto perché vedeva un guadagno facile, cioè una tassazione abbastanza... Ha trovato semplicemente dei soldi in banca. Ha trovato dei soldi in banca e quindi questi soldi... Ha considerato i versamenti come proventi, come guadagni di un'attività di lavoro autonomo. Senta, ma la sua cliente non ha avuto problemi a dire sì, faccio la prostituta? Non ha avuto problemi perché la verità non è un problema per lei, non si nasconde. Lo fa liberamente? Lo fa liberamente e autonomamente anche. E quindi insomma, però è interessante questa questione, perché lei dice di fatto l'Agenzia delle Entrate non è entrata e non è suo compito nella questione regolarizzare o no questo tipo di professione. Ha visto un guadagno, una percentuale, l'aspetto fiscale. L'aspetto, guadagni soldi, devi pagare le tasse. Però avendo, è un principio anche costituzionale, certo. Qui non c'è niente di scandaloso. Però avendo visto questo aspetto fiscale, di fatto ha prodotto una situazione in cui possiamo dire che a questo punto questa signora che fa la prostituta è una lavoratrice regolare, cioè l'Agenzia delle Entrate ha, se vogliamo, regolarizzato una professione. Sì, però c'è qualcosa che non ci sta tanto bene in questo ragionamento, non ci sta tanto bene che ci sanzioni, che ci multi. Ci sanzioni, ci multa per non aver pagato le tasse spontaneamente riferite all'anno 2011 e ci sanziona, cioè sanziona la mia assistita per non avere fatto e prodotto la dichiarazione dei redditi. Ma io la dichiarazione dei redditi, quello che si fa, sosteniamo noi, non avrebbe neanche volendo potuto pagare le tasse spontaneamente e dichiarare dei redditi attraverso la dichiarazione fiscale, attraverso il modello unico 730. È chiaro, se non è una professione. Ci multate, multano la mia assistita quando lei non ha nessuna responsabilità. Se c'è una sanzione ci deve essere una responsabilità. Però è una storia concreta molto interessante da cui io sono voluto partire. Rimanga con l'avvocato. Anche di carattere fiscale e di carattere tecnico sono anche tanti. Anche perché la sua cliente, per esempio, è contenta a questo punto, cioè il che vuol dire è contenta di essere regolarizzata e chiede un domani la pensione, chiede tutto quello che un lavoratore regolare ha diritto. Sarebbe contenta se questa regolarizzazione ci fosse, in realtà è solo una finzione di carattere fiscale, gli si chiedono dei soldi dicendo tu lavori, hai un reddito, devi pagare, ma tutto il resto, tutta la regolarizzazione, tutto il resto. Mi faccia capire, avvocato, adesso lei non può tenere una contabilità, no, non lo può fare. Beh, oddio, ha una partita IVA adesso, che fa? Se non tiene una contabilità incappa in altri tipi di sanzioni. A lei quale regime fiscale possiamo applicare? Altri servizi alla persona, non lo so, se la veda col commercialista. No, il tema più che altro è che deve mettere fattura. Non c'è una norma, ma non abbiamo in Italia una norma specifica generale. Scusi, però ha una partita IVA adesso, certo. No? Come altri servizi alla persona, certo. Dovrà emettere una fattura se ha una partita IVA, se no cosa fa? Le stavo spiegando che esiste una norma generale in Italia che qualsiasi persona che ha la partita IVA deve emettere fattura. Cioè la regola, gli adempimenti, in certi casi si emette fattura, in altri si emette lo scontrino, in altri bene. Nulla. Sono stabiliti dalle norme fiscali. Un pezzo di carta dovrà emetterlo, no? Non c'è un regolamento, non c'è una regola, non c'è. Cioè potrebbe anche non dover emettere nulla, neanche una bolla. Ci sono delle attività che, attraverso le quali si paga comunque le tasse, si tengono dei registri con dei corrispettivi, ma sono regolamentate, ci sono delle norme che dicono questa attività emette scontrino, questa fattura, questa qualcos'altro, quest'altra niente, e è disponibile, si determina in questo modo. Vabbè, per questa attività non c'è nulla, pretende da lei di pagare le tasse senza spiegare come deve fare. Senza fare nulla, neanche un registro, qualcosa, dovrà tenere. Nulla. Non so neanche a penna. Che tipo di dichiarazione? Non lo chiedo. Abbiamo tutti sentito parlare di questo spauracchio che sono gli studi di settore. Giustamente. Esiste, ovviamente. Però, avvocato, rimanga con noi. Io voglio presentarle una senatrice, la senatrice Maria Spilabotte. Buongiorno, senatrice. Senatrice del Partito Democratico. Lei è promotrice di un disegno di legge, per la verità, bipartisan. Credo che abbia raccolto quante firme? Un'ottantina? 25 sul mio disegno di legge. Poi ci sono in Parlamento, tra Camera e Senato, depositate almeno 12 disegni di legge sulla questione, sono interessati un'ottantina di parlamentari. Esatto, in questo disegno di legge lei, se l'ho letto bene, vuole, diciamo, in estrema sintesi, dedicare alcune zone della città alla prostituzione, individuate dai comuni, le possibilità di esercitare in casa, pagando le tasse, i controlli sanitari per i sex workers, l'uso del preservativo obbligatorio per i clienti, cioè una regolamentazione del fenomeno, diciamo così. Una regolamentazione, perché giustamente, come l'ha chiamato lei, è un fenomeno complesso, complicato, che va governato come tutti i fenomeni, tutti i processi, e non va mandato alla deriva. E poi arrivano i giudici o la magistratura che con le loro sentenze fanno giurisprudenza e mettono delle pezze che però non sono risolutive, perché io sono sicura che se l'avvocato farà ricorso rispetto alla decisione che hanno preso i giudici sull'apertura obbligatoria della partita IVA e sull'accertamento fiscale della sua cliente, sono sicura che vincerà il ricorso, così come è avvenuto per centinaia di casi. Abbiamo bisogno di una legge nazionale. Certo, le chiedo questo, però. No, certo, le chiedo questo, senatrice. Secondo lei, senatrice Spilabotte, quanto c'è di approccio un po' ipocrita in questo tipo di dibattito? Cioè, magari lei lo vedrà al Senato, magari nelle segrete stanze molte diranno sì, vada avanti così, però poi pubblicamente devono dire no, insomma, questa cosa non si può fare. Io sono impegnata con un deputato, mio collega, tra l'altro di Scelta Civica, quindi insomma di una parte politica che insomma viene da una matrice cattolica forte, e siamo impegnati a portare in tutta Italia la nostra iniziativa. Non ci vedo tanta ipocrisia, ci si sta rendendo conto che il fenomeno ormai è diventato particolarmente allarmante, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista del fenomeno della tratta degli esseri umani. Guardi, qui in Italia, proprio nelle more di questa deregulation, vengono ad investire 60 cartelli malavitosi in tutta Italia, perché la prostituzione non è reato, sì. E però non ci sono delle regole per cui è possibile, c'è anche uno stigma sociale che insomma non consente ancora di lavorare alla luce del giorno, per cui molti se ne approfittano e lavorano in clandestinità, portando qui veramente migliaia di donne costrette a fare questo mestiere. E questo l'abbiamo detto, la tratta va assolutamente stroncata, però ieri, senatrice, però va anche regolamentato un fenomeno. Chiaro, ma infatti non capisco perché questa signora deve pagare le tasse per un accertamento fiscale, non ha diritto alla sua previdenza sociale, non ha diritto alla sua ad avere un regime fiscale regolato. Cioè, questo è lo Stato pappone che mi chiede veramente solo i soldi, così come avveniva prima della legge Merlin, che ha chiuso le case chiuse. Lo Stato mi chiede soldi, ma non mi dà niente. È un po' così in questo, cioè ma certo, è un po' così, lo Stato ipocrita e pappone, l'ha detto lei, ma è vero, cioè che chiede soldi quando si tratta di chiedere soldi, e però non regolamenta. Però le chiedo questo, senatrice, le faccio una domanda, visto che lei è una donna. Ieri Mario Adinolfi, qui ai nostri microfoni, lui che è direttore della Croce, lo conosce molto bene, dice: non esiste una donna che liberamente possa volere vendere il proprio corpo come scelta felice. Per una convinzione prettamente personale, se conoscesse il movimento che famoso in tutto il mondo, che raccoglie centinaia di migliaia di sex workers in tutto il mondo che reclamano i propri diritti, Adinolfi non parlerebbe così. Poi se c'è una sola persona, guardi, che reclamasse il diritto di volersi autodeterminare in queste scelte, e quindi dire: io col mio corpo ci faccio quello che voglio, perché riguardano scelte personali, scelte sessuali, non credo che ci possa essere uno Stato che ci debba sovradeterminare. Guardi, questo è un punto molto importante, non riguarda solo la prostituzione, ma riguarda tutte le scelte che ricadono nella sfera personale. Cioè, una parte di società che ritiene, come Adinolfi, quel fatto immorale e quindi un peccato. pagato per l'educazione che ha ricevuto, non può ritenere che quella sia un reato e quindi lo Stato deve legiferare per abolire peccati, o criminalizzare la prostituzione e quindi fare l'equazione peccato-reato. Cioè qui questa cosa non è possibile per niente che riguardi le scelte personali. Ah, ma questa non è la sua posizione molto... Una sola persona che reclama un diritto, noi questo diritto glielo dobbiamo... È una posizione molto chiara. Io però vorrei tornare un attimo, avvocato Lunedei, ha sentito, guardi che arrivano tanti di quei messaggi, alcuni anche molto ironici sul fatto della fattura, delle questioni, cioè non so, un registro fornitori, un elenco clienti, uno studio di settore, qualcosa si dovrà tenere questa sua cliente, no? Come... qualcosa dovrà fare anche se l'agenzia delle entrate non capisce. Aspettiamo con fiducia il legislatore, è una normativa, anche perché la mia cliente dice se devo pagare le tasse è anche giusto che io possa dedurre e scalare le eventuali spese. Chiaro. Cosa che, e quindi dovrà presentare pezzi giustificativi. Quindi un eventuale fornitore di qualsiasi servizio, di qualsiasi bene che lei usa nella sua professione dovrà essere registrato. Nei confronti fattura e lei potrà. Pensa come sarà contento. Pensa che poi sarà contento questo fornitore. Il fornitore, ecco, io non si sa. Nulla di strano, insomma. Sì, non ci vede nulla di strano, no, però la cosa non mi scandalizza, non mi colpisce, poi non anche io non sono d'accordo con quanto dice Adolfi, nel senso che esiste nel mondo lo sfruttamento, ci sono persone che esercitano questa attività perché non hanno scelta, perché la vita glielo impone per sopravvivere, ma ce ne sono tante altre nel mondo, penso tantissime, che in realtà lo fanno per libera scelta e senza nessun tipo di costrizione. Quindi lei vorrebbe e auspicherebbe anche dal Parlamento, immagino che questo, non so, questa o un'altra legge possa andare avanti. Perché mi sto occupando per questa vicenda della questione fiscale, che è separata, indipendente dal discorso di apertura delle case chiuse, perché per esempio nei confronti della mia assistita l'Agenzia delle Entrate vuole tassare un'attività di lavoro autonomo, il problema si pone indipendentemente dal fatto che possono esistere delle strutture, delle organizzazioni, quello che erano una volta le case chiuse, che poi forniscono questo servizio. La mia assistita lavora da sola a casa propria, non ha questo problema, produce un reddito e nasce il problema appunto della tassazione. È un problema indipendente dal fatto che l'attività venga svolta in maniera individuale o attraverso una struttura, insomma. Questo sì. Per concludere, senatrice Spilabotte, ci dia dei tempi. So che il provvedimento è incardinato alla Commissione Affari Istituzionali, credo. In Commissione Giustizia viene calendarizzato in settimana, assegnato ad un relatore. Guardi, voglio fare solo una battuta, ma il commercialista lo sa che oggi, secondo la legge che è in vigore, la Merlin, lui potrebbe, poiché si sta occupando delle questioni del reddito della prostituta alla quale chiederà una parcella, lo sa che può incorrere nel reato di favoreggiamento e lei è avvocato, se si fa pagare sa che può essere accusato di questo favoreggiamento della prostituzione. Sorrido perché in realtà la questione potrei anche spiegarla, è abbastanza complessa, ci vorrebbe qualche minuto. Le suggerisco un reato, si faccia pagare in nero. Ma non è così, io sono un avvocato difendo le persone, perciò faccio un esempio, difendo persone che commettono reati, il diritto di difesa è sacro e nessuno mi può contestare nulla. È chiaro, insomma. Ma se lei emette una parcella come difesa potrebbe paradossalmente finire incappare nel reato. Sono tranquillo, fortunatamente non è così, ci sono ragioni di carattere sistematico e giuridico che impediscono questa linea, insomma, fortunatamente. Vabbè. Non ho problemi comunque da questo punto di vista, sono tranquillo. Senatrice, noi andremo avanti su questo tema, però i tempi, ci aiuta a capire, è stata messa a calendario. Ma che vuol dire? 57 anni che se ne parla. Che la legge Merlin è stata dibattuta in Parlamento per 9 anni. Per me è un risultato già storico che se ne parli, che 80 parlamentari di questa legislatura si stiano interessando alla questione, che il 70% dei contenuti dei disegni di legge sono combacianti, sull'altro 30% si potrà trovare una convergenza sicuramente o comunque una soluzione. La Commissione Giustizia al Senato calendarizzerà, per la prima volta avviene questo, sì, in quattro legislature in cui si presentano testi di legge di regolamentazione, per me è un risultato già storico, epocale, storico, e sicuramente comunque la questione andrà avanti, perché veramente il fenomeno sta diventando dilagante e c'è bisogno di una regolamentazione, soprattutto perché si deve fare una differenziazione tra la prostituzione coatta, quella violenta, e quella da Benedetto stroncare come fenomeno criminale, e quella è rendere, insomma, e far emergere quanto c'è di assolutamente spontaneo in maniera, insomma, da regolamentare il fenomeno. Poi le tasse vanno pagate, perché quando si acquisiscono diritti si acquisiscono anche doveri in tutti i paesi civili, e quindi e poi c'è il diritto di cittadinanza che va tutelato, cioè anche i cittadini devono non dover avere per forza prostitute sotto casa. Insomma, una regolamentazione a tutto tondo. Ma guardi, senatrice, seguiremo questo provvedimento, io le dico solo questo, e poi faremo un dibattito, magari una volta, se volete, gliel'ho promesso, anche con Maria Dinolfi, e quindi vi affronterete così. Intanto vi ringrazio, la senatrice Maria Spilabotte del Partito Democratico e l'avvocato Marco Lunedei, che difende, è legale, questa prostituta che è stata regolarizzata dall'Agenzia delle Entrate a Rimini. Dopo la pubblicità torneremo a parlare della vicenda dei migranti, ne sono arrivati altri in Italia. Siamo qui, 8 e 40 minuti. Allora, anche ieri sono sbarcati migranti in Italia. Raccontano alcuni di loro dell'ennesimo naufragio finito in tragedia con 40 morti. Noi ne vogliamo parlare con Carlotta Sami, che torna da noi, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. Buongiorno e ben ritrovata, Sami. Saluto anche il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. Sindaco, buongiorno. Dove ieri credo siano sbarcati alcuni migranti, alcuni dei quali anche malati, bisogna dirlo, insomma, con casi di scabbia sono stati registrati. Lei ha lanciato un accorato appello a dire: ci aiutate, caro Stato, o no? Perché? Com'è la situazione? Sì, perché qua la frequenza degli sbarchi ci mette seriamente in difficoltà. Durante la nottata precedente erano arrivati 850 migranti, lo sbarco è durato dalle 2 di notte fino alle 13 dell'indomani, quindi impegno di persone volontarie sulla banchina non indifferente. Dove vanno queste persone? C'è un centro, ovviamente, che però mi sembra pieno dal punto di vista delle... Sì, noi abbiamo un centro di prima accoglienza che può contenere 180-200 persone, ne mettiamo 850, per fortuna 300 se li sono portati immediatamente. Però, scusi, 200 è la capienza, ne mettete 800 dentro? Ne mettiamo 800, ne abbiamo ospitati anche 1000, naturalmente con materiali. Puoi immaginare con che condizioni? Sicuramente non nelle migliori condizioni, quindi per questo chiedo una mano al governo di non lasciarci soli, di darci una mano, perché da soli così non ce la possiamo fare. Con questa marea umana che sta arrivando, il comune di Pozzallo non è in grado di ospitare tutte queste persone. Ricordo che il comune di Pozzallo è un comune di 19.000 abitanti e non possono arrivare durante l'anno più del triplo di quanti siamo noi. Sì. Quindi è giusto che chi deve... Avete avuto segnali di risposta? Sì, io ieri sono stato sentito alla prima commissione del Senato. Affari costituzionali al Senato. Ho visto che hanno, come dire, condiviso con me tutte le problematiche che ci sono. Probabilmente nell'immediato futuro, fra qualche giorno, arriverà la commissione a Pozzallo per rendersi conto personalmente di quello che viviamo. Pozzallo vuole essere città accogliente, vuole essere città solidale, però non può farlo da solo, ha bisogno dell'aiuto dello Stato. Tra l'altro, sindaco, lei infatti ha detto questa cosa, cioè chi vuole respingere queste persone consiglio di venire qui, guardare gli sbarchi, guardarle negli occhi, osservare le scene. Secondo lei si cambia idea oppure è un approccio buonista? Sa che molti italiani pensano così. No, io ne sono pienamente convinto. Io sono convinto che queste persone che scappano dalla guerra, dalla miseria, dalla fame, non possono essere respinti, devono essere accolti. E per rendersi conto non si devono vedere le immagini in televisione o guardare qualche foto in giornali. Bisogna rendersi conto personalmente sulla banchina quando arrivano queste persone stremate, con donne, con bambini di pochi mesi o donne incinte, gente bruciata dal sole, insuppata di acqua di mare, e vediamo chi è contro l'immigrazione, se riesce a dire no, tu non scendi dalla barca, tornatene indietro. No, ma questo è un approccio, una questione di sensibilità. No, ma è chiaro, è un approccio di chi vive sul quotidianamente questa cosa. Io infatti vorrei coinvolgere su questo Carlotta Sami. Sami, mi ha colpito il fatto che molte persone, dice il sindaco, scappano, l'abbiamo detto, dalla situazione di disagio, di guerra, di persecuzione, eccetera. Esistono poi delle commissioni che devono decidere se ogni persona singolarmente ha diritto a questo status di rifugiato, di profugo. Di queste commissioni fate parte anche voi. So che un membro dell'alto commissariato fa parte di queste commissioni. Qual è il problema di queste commissioni? Sono poche? Non riescono a decidere in tempi certi? Perché poi si accumulano cause e pratiche? No, ma le commissioni non sono poche, buongiorno. Le commissioni non sono poche, il governo le ha raddoppiate, sono passate da 20 a 40, quindi proprio per riuscire a smaltire tutta la quantità delle richieste, che in effetti in Italia è aumentata molto. Perché mi risultano cause che già verranno discusse nell'anno prossimo, nel 2016. Sì, cioè. Ma bisogna distinguere, perché una cosa sono le richieste che smaltiscono le commissioni, sono le richieste di prima istanza, cosiddette, cioè le prime richieste. Poi succede che molte volte, quando viene negato la protezione internazionale o lo status di rifugiato politico, la persona fa ricorso, come prevede la legge. A quel punto tutta la richiesta non passa più dalla commissione, ma dall'autorità giudiziaria, e lì i tempi sono molto più lunghi. I tempi d'attesa delle commissioni per l'asilo al momento sono intorno agli 8 mesi, che è la media, pienamente la media europea. Guardi, anche in Francia, in Germania, questa è la media. Sono i ricorsi che riprendono molto tempo, e purtroppo nel nostro paese ci sono molti ricorsi. Sì. Perché effettivamente è un paese che comunque garantisce questo, il diritto a che la propria situazione venga riesaminata una seconda non volta. C'è, le chiedo, anche un po' troppo un business attorno a questo tipo di ricorsi e di cause? Si racconta anche di avvocati che vivono di questo, di persone che campano proprio su questo tipo di ricorsi. Ma guardi, non so, bisognerebbe vedere caso per caso. La legge garantisce questo diritto, e ovviamente giustamente chi se lo vede garantito lo vuol far valere. Questo, su questo non ci sono dubbi. Detto questo, ripeto, ci sono tante commissioni nuove, stanno entrando in funzione anche tutte queste nuove, ci siamo anche noi, sì. C'è un membro dell'Agenzia ONU per i rifugiati, una persona in ognuna di queste commissioni, e sicuramente credo che quando saranno a regime, il fatto di averne 40 su tutto il territorio permetterà di andare più veloce, soprattutto sulla prima istanza, a sbrigare, ripeto, pratiche. Le chiedo questo: lei ha sentito il sindaco che dice ci vuole accoglienza, bisogna guardarli negli occhi per poi avere il coraggio di dire non accogliere queste persone. Lei cosa risponde a chi le dà? Leggevo anche ieri sul giornale un profilo suo, l'attaccavano molto dicendo che era buonista per principio. Cosa risponde a tutte le accuse, le critiche di chi dice c'è troppo buonismo nella gestione della migrazione? Sì, gli attacchi sono molto vanno molto al di là del semplice accusa di buonismo, purtroppo, perché effettivamente al di là del fatto che ci sono persone che scappano dalla guerra, nel nostro paese evidentemente ci sono persone molto violente anche verbalmente, e quindi non solo rimangono indifferenti ma sviluppano anche una certa aggressività. È impossibile rimanere indifferenti, conosco bene il sindaco, ne abbiamo parlato tanto. Possibile rimanere indifferenti, soprattutto pensando alla storia della stessa Italia, al fatto che qui c'è stata una guerra e che abbiamo avuto anche molti parenti non troppo lontani nel tempo che hanno dovuto fuggire da questa guerra o da persecuzioni razziali. È una cosa che succede, e purtroppo i conflitti in questo momento non ricevono molta attenzione nel termini di capacità di soluzioni. E questo è quello che è quella conseguenza di questo, è proprio il fatto che una parte, ripeto, comunque io lo ripeto sempre, sono milioni, 50 milioni di persone che fuggono dalla guerra nel mondo. L'anno scorso attraverso il Mediterraneo in Europa sono arrivate circa 200.000 persone. Quindi noi insistiamo, abbiamo anche portato avanti, ormai è un anno che insistiamo con il nostro piano 12 azioni per risolvere la crisi del Mediterraneo, e continueremo a insistere perché ci vogliono azioni concrete. Sì. Se si inizia con una di queste azioni si può andare nella direzione giusta. Per esempio si dice che se ne occupi l'ONU, gli stessi leghisti, che quelli sa sono politicamente quelli molto più duri sul tema immigrazione, anche Maroni qui a questi microfoni qualche settimana fa ci ha detto se ne occupi l'ONU, chi meglio dell'ONU può andare in Africa, nei paesi africani, nei paesi di transito, nei paesi di partenza, come agenzia internazionale a gestire da lì per evitare che questi prendano poi imbarcazioni e vadano per mare. Campi rifugiati, ripeto, sono 50 milioni le persone che scappano e il 90% di queste persone vivono nei paesi vicini alla guerra dove siamo noi, per cui non è che non stiamo facendo la nostra parte. Trattiamo 1500 registrazioni di rifugiati al giorno noi in Giordania, di rifugiati siriani al giorno. E quindi è proprio quello che diciamo, effettivamente noi questo lavoro lo stiamo facendo e sarebbe bene dare attraverso queste registrazioni poi la possibilità ad alcuni, secondo delle quote stabilite ovviamente, senza lasciare il tutto in maniera indefinita, ad alcuni la possibilità di arrivare in Europa in modo legale, dandogli, esistono dei programmi già previsti, solamente che sono pochissimi gli stati che accettano di farli, sì. La Germania, la Svezia, ora anche l'Italia. Ha aperto per la prima volta la possibilità dei rifugiati siriani di arrivare in questo modo, ma dovrebbero essere un po' i 28 membri dell'Unione, non solo 3 sì, o 4 si a dice farlo. Spesso l'Europa reagisca unita e compatta. Sì, ma è un po'... l'Europa fatta degli stati, intesa come... Fatta da singoli stati. Perché in realtà è questo il problema, è la volontà dei singoli stati. E in quel modo si toglierebbero dalle griffe dei trafficanti un buon 50% delle persone, che poi sono i siriani e gli eritrei. Sono persone che sicuramente avranno lo status di rifugiato. Certo, politico. Che gli stati europei agiscano in maniera autonoma e singola a dire accettiamo che vengano spediti senza che prendano magari attraversando il Mediterraneo rischiando di morire le barche, ma che vengano direttamente nei paesi di accoglienza se ne hanno diritto. Io ringrazio Carlotta Sami, ripeto, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, e il sindaco di Pozzallo in provincia di Ragusa, Luigi Amatuna, sono stati con noi per raccontarci questa tragedia continua che purtroppo continuerà anche nei nostri racconti nei prossimi giorni. È il momento del traffico e poi i nostri lavoratori. Lavoratori! Eccolo il momento dei nostri lavoratori, coloro che ci scrivono a 24 mattino e radio24.it per raccontarci con passione il proprio lavoro, la propria professione. Oggi voglio salutare Gabriele. Buongiorno Gabriele. Eccoci. Ciao, buongiorno qua. Alessandro. Allora, Gabriele, si può dire certamente che è un amante degli animali, questo si può dire, immagino, no? Assolutamente. È questo che ti ha spinto a inventare qualcosa di innovativo. Io allora, ci sono anche dei cani che hanno allergie, come gli uomini, no? Immagino. Sì. E tu che cosa ti sei inventato, quindi? Io mi sono inventato un tessuto, perché avevo un cane che soffriva appunto di allergia da contatto. Ho capito che quindi dove stava, gli procurava questo malessere, che si ripercuoteva sulla sua vita, e ho fatto delle ricerche e dopo tanto tempo ho inventato Olitex, che è il primo tessuto che può vantare le 5A, cioè analergico, atossico, antibatterico, antimuffo e antiacaro. Cioè un tessuto analergico per il cane, ma cioè, in che senso? Ma che quindi bisogna ricoprirlo il cane, bisogna mettere gli vestiti? No, io ci faccio accessori, ci faccio tipo cuscini, cucce, collari, guttaglie, borse. Fantastico, cioè non è che si riveste il cane, si riveste tutto ciò con cui il cane viene a contatto, giustamente. Esatto. Cui cucce, cuscini, ma anche il divano di casa, devo fare il divano di casa analergico. Certo, e anche per gli umani. È nata per questa passione e per risolvere questo problema che aveva il mio cane, però la cosa chiaramente poi è esplosa, è piaciuta e i campi di applicazione per un tessuto sono infiniti. No, ma noi abbiamo ricevuto questa mail molto appassionata, si chiama Olipet, quello che hai messo in... Olipet è il marchio proprio che è dedicato al mondo degli animali. Esatto, che crea cucce, accessori, appunto, l'hai detto, poltrone, cuscini, tessuti per rivestire tutto ciò con cui il cane viene a contatto. È vero, esatto. Lo esporti in tutto il mondo. Sì. In Giappone tipo siamo fortissimi. In Giappone vendiamo addirittura... Siamo presenti in 5 città, negli showroom Alfa Romeo. È fantastica questa cosa. Cioè, lo vendono come accessorio per le auto, quindi... il cuscino per la bauliera. Nelle auto addirittura, certo, per trasportare il cane che deve fare, il cane è analergico, ma sono tanti i cani che hanno dermatiti. Ma proprio ci scrivono subito se va bene per i gatti o solo per i cani. Certo, no, anche per i gatti. Anche per i gatti. Sì. E poi altri animali? No. No. Cani e gatti. Cani e gatti, diciamo. Comunque considera, Alessandro, che i cani e gatti in questo paese sono quasi 20 milioni. No, ma non c'è dubbio. Il 10% durante tutto l'anno sono animali soggetti a forme di allergia. Nel periodo estivo la percentuale diventa esponenziale, raggiunge quasi il 50%. Pensa che io pensavo all'allergia, cioè dell'umano per il gatto e per il cane, invece c'è il cane e il gatto che hanno l'allergia. Proprio. Perché poi abbiamo fatto dei prodotti, dopo questa invenzione del tessuto, mixando materiali, elementi, tipo faccio l'esempio della nostra cuccia, famosissima cuccia, che è anche ortopedica. Quindi per tutti i cani che hanno tipo la displasia dell'anca, che sono tantissimi. Fantastico. Cioè, abbiamo fatto un presidio medico-sanitario, cioè un ottimo ausilio. Allora, che viene, cura. Ma è fantastico tutto questo. Gabriele, allora, fatti pubblicità, com'è? www.olipet.com, credo. Esatto. Questo Olipet. È il sito. Olipet, semplicissimo. Gabriele, ma sei stato fantastico, ti sei inventato questa cosa che so che è coperta anche da segreto industriale, insomma, hai brevettato tutto questo tessuto per aiutare i cani e gatti che hanno dermatiti, eccetera. Con Gabriele concludiamo con questa canzone, sei un farabutto. Olipet.com, se no scrivete a noi 24mattino e tradio24.it e noi vi daremo tutti i dettagli. Grazie Gabriele, lavoratore! Chi l'ha detto che non si può?